Tempo di Sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Flavio Suardi in redazione, Fabio Cantadori in regia. Oggi parliamo di mercato e mercati. Saluto anche Marco Beninazzo, collega molto autorevole e molto informato del Sole 24 Ore. Ciao Marco, grazie. Buongiorno a tutti e grazie per l'autorevole e l'informato. 800240024 per parlare con noi, ma soprattutto saluto ed è collegato con noi il professor Roberto Beccantini. Ciao Roberto. Buon pomeriggio Carlo, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Buon pomeriggio Roberto, la Juventus si veste di nuovo e torna a spendere come una signora vera in via Monte Napoleone. Tanto per cominciare, ti piace la nuova maglia grigio acciaio o grigio Alessandria? No, sono vecchio, ho raggiunto la pace dei sensi, dei giraudi, quindi guarda, io appartengo alla maglia bianconera, of course, e poi a quella all black con la quale negli anni 60, prima squadra europea, la Juve espugnò il Chamartén di Madrid 1-0 al Real Gol di Sivoli. Invece ti piace il nuovo centrocampo made in Brasil? Ecco, allora, non è male. Non è male, Dovrebbe essere più forte di quello licenziato dalla scorsa stagione, ci vuole poco, speriamo che sia soprattutto più creativo, che non deleghi tutta la fantasia, tutte le geometrie a Diego o a Del Piero Camoranesi se quando saranno chiamati in causa da Ferrara. Per questo avrei preferito D'Agostino, però riconosco che Felipe Melo è un buon giocatore, anche se i 25 milioni che ha spuntato Corvino mi sembra un'assurdità, come peraltro ritenevo assurda la quotazione di D'Agostino sui 20 milioni. Sì, leggevo oggi appunto che avresti preferito D'Agostino per il centrocampo della Juventus, anche se Felipe Melo, anche dal punto di vista tattico, si sposa bene con questo progetto. Credo. Sì, puoi fare, sai, nel Brasile di Dunga, Felipe Melo è con Gilberto Silva, è il tetto della squadra davanti alla difesa, e poi ci sono i tre e poi c'è Luis Fabiano. Può essere un sistema di gioco traducibile anche nella Juventus, può fare anche il vertice basso del rombo, anche se lì l'ideale per me era D'Agostino. Insomma, è un buon giocatore, sicuramente rende più forte la Juventus, anche se non la colloca ancora a livello Inter. E vediamo, perché poi gira e rigira Carlo, la grande incognita della squadra è l'elemento al quale la piazza oggi vuole più bene, cioè l'allenatore Ciro Ferrara. Sì, anche se comunque è un uomo di intelligenza, di carisma, è rispettato in spogliatoio. Poi vediamo anche come saprà gestire i rapporti personali, perché quello con i suoi ex compagni, perché quello sarà un nodo importante. Roberto, poi con Marco Beninazzo parliamo ampiamente di soldi. A 25 dicevi tu e scrivevi tu oggi sulla stampa, sono tantissimi, ma sono meno dei 35 spesi per il trio Thiago Poulsen Almiron? Sono di più di quei 17 o 18 che sarebbero serviti per Xabi Alonso l'anno scorso? Non perché si consideri Xabi Alonso un genio, Carlo, ma perché era, secondo molti, anche secondo me, la rotella che mancava, la rotella che sulla carta, sottolineo sulla carta, avrebbe potuto completare un centrocampo che storicamente, per quel che concerne la Juve, è sempre stato muscolare. Sai, non capita tutti i giorni di beccare un Vieira che sta bene. Noi abbiamo beccato l'ultimo Vieira vivo e fece, l'ultimo Emerson all'altezza della scuola sua, per tacere insomma di quel grandissimo giocatore che aveva il fisico da stopper, però una scatola nera da genio, Zidane. Qui siamo su livelli assoluti che, è chiaro, non capitano tutti i giorni, né pretendo che capitano tutti i giorni, però insomma il problema della Juventus è questo: cercare di ritrovare una certa cifra di estetica, di tecnica, perché è soprattutto la tecnica che oggi fa la differenza in Europa. In Italia ancora il fisico, ma in Europa, semmai la Juventus, come mi auguro, voglia pensare di tornare competitiva anche in Europa, la tecnica è indispensabile. Io infatti credo che molto della stagione juventina e anche del gap che divide la Juventus dall'Inter dipenderà dal valore di Diego, dalla prova del valore di Diego dalle nostre parti, perché in fondo è il giocatore che mancava alla Juventus dell'anno scorso. La Juve aveva Giovinco. Sì. Diego è sicuramente un giocatore che fa più gol di Giovinco, che vede più la porta di Giovinco. Non fa parte della rosa di Dunga, però a Brema ha fatto bene. Vediamo adesso in una realtà diversa, molto più complessa di quella tedesca, in una squadra, in una società che, tu sai Carlo, se arriva seconda già offre materia per processi. Naturale. Quindi vediamo. Roberto, per chiudere, l'appunto più facile da muovere e anche forse più banale è quello di una Juventus ancora non all'altezza sulle fasce, dietro come a centrocampo. Certo, certo, assolutamente, assolutamente. È un argomento che oggi io nel fondo ho trascurato, ma che ho ben presente. Per quanto riguarda la difesa, è importante soprattutto chiamarla fase difensiva e non soltanto per un tico, per un mezzo. Per cui lì è cruciale l'atteggiamento del centrocampo. Scendendo viceversa al reparto Tucù, nudo e crudo, io non avrei ripreso Fabio Cannavaro, perché non credo nei bis della storia. Però è tornato Fabio Cannavaro, vediamo quello che può offrire, e come sottolineavi resta la vulnerabilità sulle fasce, il settore in cui i Ibrahimovic messa a parte, la Juventus è ancora lontana dall'Inter. Sì. Grazie Roberto, buon lavoro. Grazie a te Carlo, grazie a tutti. Prestissimo, grazie a Roberto Beccantini con cui abbiamo aperto la nostra chiacchierata, che poi continueremo con gli ascoltatori. 800 24 00 24, telefonate, messaggi 349 238 6666. A proposito di numeri, c'è qui Marco Bellinazzo, diamo un'occhiata alle cifre, Marco, perché la Juventus, dicevo prima, è tornata a spendere come una signora vera in via Monte Napoleone. A proposito di vestiti, queste maglie nuove, prima a microfoni spenti chiacchieravamo sul fatto che all'estero già si fanno di questi conti, già corre il tassametro, 2000 maglie di Ronaldo vendute in 20 minuti, in un quarto d'ora, eccetera, eccetera. Da noi la filosofia è un po' diversa, i nostri club non possono contare sul maquillage delle magliette, perché è una voce che a bilancio conta relativamente. Sì, credo che siamo quasi al di sotto del 10% di quello che valore del merchandising, contro un 20-30% che ormai sta esplodendo nei bilanci delle grandi squadre europee. E il Real Madrid ha dato una bella lezione al calcio europeo con le presentazioni di Cristiano Ronaldo e Kakà, che sono stati dei veri e propri spettacoli, degli show che hanno garantito incassi supplementari, un grande giro d'affari. Leggeva appunto di Florentino Perez che diceva: abbiamo messo in moto 80.000 persone con tutto quello che possono spendere. La cosa incredibile è che 80.000 persone si muovano, facciano ore di coda sotto il sole. L'altro giorno parlavamo con Filippo Maria Ricci, dalle 10-10:30 del mattino c'era gente che aspettava di entrare allo stadio per una cosa che è avvenuta alle 21, che sostanzialmente era Cristiano Ronaldo che camminava su una passerella, che palleggiava neanche tanto bene. Sarà molto, molto interessante verificare l'anno prossimo l'effetto sui bilanci di questa campagna acquisti che molti hanno definito folle, sproporzionata, addirittura non morale di Florentino Perez, e vedere se effettivamente invece queste spese rappresentano degli investimenti, possono garantire quei ritorni che Florentino Perez si aspetta, sia dal merchandising sia dalle tournée che certo. Il Real sicuramente farà, e sia appunto dai diritti televisivi. Questa è la grande scommessa. Io ho paura che anche se, come dire, si raggiungano gli obiettivi, il Real Madrid sarà un esempio molto molto difficile da raggiungere per le nostre squadre. Certamente. Credo che appunto Real Madrid e Barcellona anche l'anno prossimo, insomma, avranno la possibilità di accrescere il loro valore sia dal punto di vista, diciamo, economico, che dal punto di vista, sì, di vista sportivo. Sì, alla base di tutto questo ci sono anche discorsi culturali, no? Per esempio, mi viene in mente quello delle magliette. Dalle nostre parti, insomma, sono conti che non puoi fare, ma perché semplicemente per abitudine, per questione culturale, noi non siamo così feticisti, cioè legati alla necessità di avere la maglietta nuova della squadra del cuore con il nome del nuovo campione. Da noi si va, e questo è il male di questa parte del sistema, si va a comprare quella taroccata a 10 euro che si usa per giocare a calcetto. Quindi io credo che da questo punto di vista non ci siano grandi chance di crescita. Le vere chance di crescita sarebbero legate alla proprietà degli impianti. A questo proposito, hai fatto un'approfondita indagine sul Sole 24 Ore di qualche giorno fa, scoprendo che insomma, è vero che Real Madrid ne ha spesi 216, che ha, non so, cosa siamo, a quanto, 800 di debito? Su Real Madrid siamo intorno a 600, 650. Oltre 800 sono quelli del Manchester United, però anche la nostra Serie A, Anche la nostra Serie A non è messa tanto bene, è messa meglio della Liga, della Premier League, che viaggiano ben oltre i 3 miliardi di euro di sterline di debiti. Noi siamo intorno ai 2 miliardi di debiti, e parlo della nuova Serie A, quella che sta in questi giorni scaldando i motori, per usare una metafora non calcistica. 2 miliardi di debiti iscritti nei bilanci nello stato patrimoniale. Sono i dati di bilancio dati e vanno letti sempre con grande attenzione e in considerazione di quello che è il più ampio giro d'affari delle società. È vero che appunto Premier League e Liga Spagnola hanno più debiti della Serie A, però è anche vero che hanno un giro d'affari molto più ampio, che permette comunque ogni anno di raggranellare utili e comunque di garantire la continuità aziendale delle società, cosa che invece in Italia manca, e forse questa è la vera pecca del calcio italiano. Mentre da noi si legge tutto su mecenatismo, cioè sulla promessa e sulla credibilità del proprietario del club, che dice: tranquilli, se c'è un buco garantisco io, e se tutti ci credono va bene, no? L'esempio del Milan, quello che sta accadendo in queste settimane, è un esempio lampante. Il patron che ha finanziato finora la squadra, che se voi ha fatto iniziare questa rivoluzione del calcio italiano a metà degli anni 80 con la sbornia dei diritti televisivi, cosa che ha garantito grandi successi del calcio italiano a livello di club e a livello europeo, ha però deciso appunto di cambiare politica e quindi pareggio di bilancio, attenzione ai conti. Questo come si sono accorti tanti tifosi del Milan che si sono recati al ritiro qualche giorno fa, significa insomma avere perlomeno meno chance o comunque aspirazioni più contenute. Se invece si attua una politica legata a un pareggio di bilancio, comunque a un'autonomia finanziaria del club, significa che il club, se un anno risparmia e se tiene i conti a posto, può anche, diciamo, scommettendo sul vivaio, fare investimenti, ma farli investimenti mirati e non più insomma figurine o campioni che sono campioni ormai solo sulla carta, che costano tanto. E a questo proposito parliamo di Juventus. 138,95 milioni di euro spesi dalla Juventus al ritorno, da quando è tornata in Serie A, molti dei quali spesi male. Ricordavo primi 35 per il trio Thiago Poulsen Almiron. Su questo mercato siamo già a quota 50 ed è Juventus e Napoli si giocano il titolo di regina del mercato, almeno dal punto di vista della regina di denari. C'è anche Blanc che in un'intervista che leggevo oggi su Repubblica dice: la Juventus concorda con Platini, la competizione è leale se vengono rispettati i parametri finanziari, se i conti sono a posto, come nel nostro caso, si possono fare investimenti importanti. Mi auguro che nel giro di qualche anno tutti i club europei si allineino alle posizioni dell'UEFA. Cosa ne pensi? È un tema che qui abbiamo affrontato spesso e ho paura che ci voglia ancora un po' di tempo per far entrare nella testa dei patron dei vari club a livello europeo, e soprattutto nella testa di molti tifosi che vogliono semplicemente il campione, il risultato e dei conti, se ne fregano. È un discorso lungo. Lo stesso Platini l'altro giorno, commentando l'ennesimo acquisto stellare del Real Madrid, ha parlato appunto di una strategia non considerabile dal punto di vista economicamente ed economicamente parlando come una strategia valida, e quindi ha detto bisogna apportare dei correttivi. Si è parlato della possibilità del salary cap, più che altro la tesi che porta avanti Platini da parecchio tempo è che si debba garantire all'interno di ogni squadra una appunto autonomia di bilancio, cioè ogni squadra deve spendere in base ai soldi che entrano semplicemente nelle casse e non perché ci sono finanziatori e patron che spendono soldi. Questo tipo di politica però può essere realizzata nel giro di 2-3 anni e può essere portata avanti dall'UEFA fino a un certo punto. L'altro grande tema, per esempio, di cui si parla, è a proposito di concorrenza sleale della Spagna, è la famosa aliquota al 25% garantita ai calciatori stranieri per 5 anni. Però su quella, diciamo, la UEFA non può fare nulla, perché la normativa europea in materia di fisco e di aliquote è nazionale, perché ogni Stato può fare quello che gli pare sostanzialmente. La UEFA però può fare cosa? Può stabilire dei paletti, delle griglie per l'iscrizione alla Champions League, all'Europa League, e stabilire appunto, per esempio, che chi ha determinate soglie di indebitamento, chi non garantisce con il fatturato le campagne acquisti, non si possa iscrivere. Una rivoluzione anche qui che temo verrà tra qualche anno, però è inevitabile, si deve andare in quella direzione se non si vuole finire a guardare sempre finali tra squadre inglesi e spagnole. Sì, però ho capito, però bisogna vedere anche fino a che punto converrebbe, in un ipotetico discorso di questo tipo, alla UEFA e alla Champions League non avere il Real Madrid, il Manchester United, eccetera eccetera. eccetera, eccetera. Credo sia un po' un cane che si morde la coda. Marco, ci fermiamo per il traffico, come ben sai sono le 14:15, ma poi torniamo a fare questi discorsi, anche perché mi piacerebbe capire. Blank dice questo, sulla base dei tuoi conti vorrei capire come è messa la Juventus e come sono messe le altre realtà del calcio italiano, perché mi sembra che ce ne sia qualcuna messa davvero male. Ecco ancora Marco Beninazzo che adesso ci dice come è messa la Juventus, che ha speso un sacco di soldi dal ritorno in Serie A in questa campagna acquisti in particolare, 50 milioni il tassametro corre, perché Blank ha detto mercato chiuso dopo che abbiamo sistemato la faccenda Felipe Melo, ancora non ufficiale perché c'è Marchionni che sta tirando un po' sul prezzo del suo ingaggio con la Fiorentina, che tra l'altro oggi ha sondato per Brighi, perché è chiaro che un giocatore al posto di Felipe Melo arriverà in viola, però la Juventus può permettersi queste spese, Marco? Beh, l'anno scorso la campagna acquisti ha prodotto poi sul bilancio un rosso di esercizio intorno ai 20 milioni, però c'è da dire che per quanto riguarda gli asset patrimoniali la Juve è messa bene, ha quasi 100 milioni di patrimonio netto, il che significa che in un rapporto tra mezzi propri e diciamo l'insieme del passivo è in questo rapporto ben oltre quella soglia del 33% che viene di solito considerata come fisiologica nelle aziende che svolgono attività di impresa normali, diciamo normali, sì. non calcistiche. Quindi è quella messa meglio, la crisi legata alle vicende, agli scandali che hanno colpito la vecchia dirigenza, sì, in qualche modo ha facilitato questo cambio di rotta, un'attenzione maggiore ai conti. L'anno in Serie B ha consentito magari alcuni risparmi, non riducendo le entrate, perché il seguito di tifosi che ha la Juve, sì, è sicuramente ragguardevole, almeno in Italia. Per cui finanziariamente la Juve può sostenere questa campagna acquisti, e io ho l'impressione che da qui a un paio d'anni assisteremo davvero a un cambio della guardia al vertice del calcio italiano, un rivolgimento di valori, perché i debiti che hanno per esempio il Milan o l'Inter, oltre 390 milioni, se è vero che le proprietà non garantiranno più quella diciamo copertura costante delle, sì, spese, farà sì che ci sarà in qualche modo una fuga di campioni da queste squadre, in parte già lo è stato almeno per quanto riguarda il Milan, vedremo se a fine campagna acquisti Ibrahimovic e Maicon resteranno all'Inter, mentre altre squadre che sono state più attente ai conti per propria volontà o perché sono state colpite a metà degli anni 2000, insomma, da fallimenti che hanno azzerato i debiti, mi riferisco a Fiorentina, a Napoli, a squadre che hanno i conti più o meno in ordine, in particolare la Fiorentina, conti assolutamente tranquilli, e il colpo di Felipe Melo ai 25 milioni incassati confermano ancora più tranquilli, ancora più tranquilli, permetterà, come dire, a queste squadre di emergere ancora di più, se si considera poi la posizione della Roma, la difficile posizione della Roma. La Roma ha una situazione un po' paradossale, no? Sì, infatti ne abbiamo parlato anche qui le scorse settimane, questa vicenda Fioranelli ha in qualche modo paralizzato il mercato della Roma, e la situazione societaria non è ancora del tutto chiara. Chiunque insomma, ha valutato questa vicenda nelle scorse settimane riteneva appunto l'offerta di Fioranelli in qualche modo non solida, e questo, diciamo, il fatto che si sia bloccata per il momento, salvo sorprese finali, sì, conferma questa ipotesi, e anche un po' il pressapochismo che a volte circonda il calcio italiano. No, ma dicevo paradossale perché la Roma come società calcistica, non come asset del gruppo Ital Petroli, la Roma come società calcistica è stata gestita negli ultimi anni in maniera... Con assoluta oculatezza, dicono i numeri. Il bilancio, anche perché ricordiamo la Roma è insieme alla Juve e alla Lazio una società quotata, per cui c'è un'attenzione, una necessità di avere attenzione ai conti, e l'esercizio 2008 si è chiuso con 20 milioni di attivo, è la società che ha raggiunto l'attivo migliore ed ha un patrimonio netto di circa 130 milioni, per cui questo significa, a fronte però di 152 milioni di debiti, che c'è un sostanziale equilibrio nella Roma in quanto società sportiva. I problemi della Roma, come sappiamo, sono nella proprietà, sono in un debito di quasi 400 milioni della proprietà, che le banche, Unicredit in testa, hanno bisogno di recuperare in qualche modo. Senti, sempre a proposito di Roma, un'altra cosa che mi incuriosisce, insomma, è chiaro che c'è grande attenzione ad alcuni giocatori della Roma. Si parla di un'offerta di e penso, se non è ufficiale, è ufficiosa, ma comunque esiste questo interessamento del Real Madrid per Daniele De Rossi. Si parlava di 30 milioni di euro, che sono grosso modo quelli che la Roma ha bisogno in maniera abbastanza urgente per le attività correnti. Sì, per la gestione corrente, grosso modo. La Roma può permettersi di dire a lungo di no per alla corte, ai suoi giocatori? Guardando i conti, evidentemente di no. Anzi, potrebbe essere un'occasione per valorizzare altri giovani del vivaio e rientrare, coprire almeno le spese ordinarie e mettere ulteriormente a posto il bilancio della società. Vedremo cosa accadrà. I conti ci dicono che la capacità di resistere a certe offerte di alcuni club italiani sono sempre meno vigorose, per cui i tifosi della Roma e anch'io magari per il calcio italiano mi auguro che De Rossi resta in Italia e che non si impoverisca ulteriormente la Serie A. Stando ai conti, ripeto, diventa molto difficile difendere il loro patrimonio, perché insomma quei soldi la Roma ce li ha bisogno per la gestione corrente, ripetiamo. Parliamo intanto anche con gli ascoltatori, perché voglio far intervenire anche loro. 800240024, numero verde, il primo Andrea da Verona, buongiorno. Sì, buongiorno dottor G, fa piacere sentirla, io ascolto sempre la vostra radio, ma è la prima volta che intervengo. Sì. Io volevo parlare, in realtà, cambiando un attimo l'argomento, del Palermo Calcio. Io sono tifoso del Palermo Calcio. Sì. E oggi, mi sembra che oggi o ieri, c'è stata la presentazione di Zenga. Sì. Un po' di rumore l'ha fatta. Sì. Allora le volevo chiedere, prima di tutto, quanto dura Zenga con Zamparini? Secondo me dura pochissimo. Lo sapessi, giuro che andrei alla SNAI domani, anzi oggi pomeriggio dopo il programma. Due caratteri non da poco. Direi che le uscite migliori di ieri sono state quelle di Zenga, sono qui per vincere lo scudetto, e quella di Campedelli. Sono in lista per Ibrahimovic, ho lo 0,01% di possibilità di prenderlo. Sono state le due cose più belle della giornata di ieri, non trova? Sì, infatti, sì. No, ci divertiremo sicuramente, però io credo durerà molto poco. E poi volevo dire, a proposito del Palermo, Zamparini si lamenta il fatto che gli abbonati diminuiscono, c'è stato quasi un dimezzamento, mi sembra, eccetera, eccetera. Sì. Però in realtà Zamparini sono anni che promette, ma poi alla fine mantiene abbastanza poco. Spesso le squadre si disfanno, spesso gli allenatori vanno via senza capire il perché. È difficile, voglio dire, che la gente veda una continuità in questi comportamenti, e di conseguenza la disaffezione del pubblico è quasi normale. Ma insomma, mi sembra che il Palermo comunque nelle ultime stagioni abbia avuto una squadra anche divertente a tratti, senz'altro una squadra non da scudetto, e non è da scudetto ovviamente quella di quest'anno, però non lo trovo così giustificato il fatto di allontanarsi dalla squadra. Probabilmente c'è un po' di abitudine da parte dei palermitani ad una squadra che naviga alle spalle di quelli che lottano per la Champions League ed è tra quelle che sono lì in bilico tra l'Europa minore oppure no. Come sta il Palermo a conti, Marco? Ma ha un patrimonio netto di 20 milioni, debiti per 70 milioni, l'ultimo esercizio si è chiuso con meno 4. Non è che ne abbia messi pochi, ne abbia spesi pochi Zamparini? No, ne ha spesi, forse i ritorni sportivi non sono stati quelli che si aspettava. Diciamo che è appunto, anche dal punto di vista contabile, in questa fascia che dicevi tu, un po' intermedia tra le squadre di vertice, diciamo, e quelle che staranno costrette a lottare per la retrocessione. In questo caso i bilanci sono molto molto chiari. Sentiamo anche Alberto dalla provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, dica. Ma un chiarimento più che altro, perché non riesco a capire una cosa. Perché noi tutti ci scandalizziamo per gli ingaggi dei grandissimi campioni tipo Ronaldo piuttosto che Kakà o Ibrahimovic, quando il calcio è risaputo e tutti lo sanno, è un fenomeno planetario, forse la prima industria al mondo, e loro ne sono comunque gli interpreti principali. Quando leggo poi oggi sulla Gazzetta che un normalissimo giocatore che non fa parte neanche del quintetto base della NBA, che è il nostro Bargnani, ha firmato un contratto da 50 milioni di dollari in 5 anni. Sì. Cioè, un fenomeno come la pallacanestro americana è importantissima, bellissima, ma comunque ristretta per lo più agli Stati Uniti o comunque non a livello planetario seguita da miliardi di persone come il calcio. No, aspetti, Alberto, lei ha ragione su tutti i fronti, infatti io non sono tra quelli che si scandalizzano, non sono tra quelli che fanno della facile demagogia e dicono quanto guadagna Kakà, quanto guadagna Cristiano Ronaldo, è un gioco di ritorni, sono artisti, sono comunque lavoratori infungibili, perché non possiamo andare io e Marco Berinazzo a fare quello che fanno Kakà, Cristiano Ronaldo, purtroppo altri possono tranquillamente venire a fare quello che stiamo facendo noi, e pertanto il nostro valore di mercato è un pochino più basso. però non sono d'accordo solo sul fatto che l'NBA sia qualcosa di prettamente americano, anzi. Peraltro il problema non è tanto nel valore dell'ingaggio, il valore del monte ingaggio rispetto al giro d'affari, perché quando paghi per circa il 60-70% del bilancio sono costi dei giocatori, è chiaro che l'azienda non si sostiene. E se all'inizio degli anni 90 si è voluto in Italia fare la grande scommessa di trasformare le associazioni sportive in società e quindi in aziende vere e proprie, si è però mancato nel fare il passo ulteriore, cioè nel dotare di strutture manageriali adeguate queste squadre, ed è questo mancato adeguamento, quindi a livello anche di cultura aziendale dei club, fa sì che oggi ci troviamo nelle condizioni in cui ci troviamo, cioè con un calcio italiano con 2 miliardi di debiti, non più capace di competere a livello sportivo e non più capace di attrarre quei campioni che invece volano verso altri club. Sai Marco, l'impressione, ma poi ne parliamo con calma, adesso abbiamo la borsa, l'impressione è che il calcio sia gestito esattamente come 40-50 anni fa, mentre tutto il resto del mondo intorno si è mosso verso altre direzioni e i denari che circolano ovviamente sono infinitamente di più. Dunque, mi sono tenuto naturalmente Marco Berinazzo, collega del Sole 24 Ore, e abbiamo diversi ascoltatori con cui chiacchierare in questo discorso tra mercato appunto e possibilità di sostenerlo che stiamo facendo con Marco Berinazzo naturalmente da parte dei nostri club. Maurizio, Genova, buongiorno. Sì, buongiorno, mi chiamo Maurizio, sono tifoso del Genoa. Sì. A me pare che si parli molto delle grandi squadre, giustamente, però forse del Genoa si è parlato poco rispetto a quello che è stato prodotto dalla squadra negli ultimi 5 anni. Non dimentichiamoci che è stato mandato in Serie C dopo aver vinto un campionato, ne ha vinti 2 di fila, è arrivato 8° in Serie A e l'anno scorso è arrivato 5° con giocatori tipo Bocchetti, che nessuno sapeva nemmeno chi fosse. Sì. Io mi sono trovato anche in Spagna a parlare di Milito, mi dicevano: ma com'è che il Madrid non ha preso Milito, che in Italia sta facendo? Lo vedevano cosa faceva, lo vedevano come giocava, eppure non lo voleva nessuno. Quindi il problema è anche, secondo me, di capire quali sono i giocatori buoni e quelli che invece, anche se hanno magari un nome altisonante o sono valutati parecchi milioni di euro, renderanno poi di meno. Vero. Credo che il Genoa abbia dato un esempio in questo, nonostante che, ripeto, se ne parli di meno rispetto di... Se ne parla di meno, insomma, si parla, non è vero, anzi, complici i risultati, si parla molto e con grande piacere del Genoa, ma lei si è fermato a Milito. Insomma, Thiago Motta è un giocatore rigenerato, un giocatore fermo da 2 anni, una grande scommessa, è stato preso e venduto a peso d'oro ora all'Inter. Milito è un altro, ma insomma, lo stesso Ferrari era reduce da stagioni così per essere generosi con la Roma, è arrivato a Genova ed è rifiorito, adesso anche lui venduto in Turchia, tra l'altro un contratto milionario per il centrale. Adesso sono curioso di vedere se riescono a rigenerare e a, come credo faranno, anche Crespo, e a ridargli campo, ridargli fiducia e ricevere in cambio gol. Allora vuol dire che a Genova hanno trovato l'acqua benedetta. Intanto dal punto di vista finanziario, insomma, credo, Marco, che queste operazioni lasciano tranquilli Preziosi e i tifosi genovani. Sono state però in qualche modo obbligate, perché il Genova era tra le squadre messe peggio sulla base degli ultimi bilanci, con 80 milioni di debiti, perché c'è stato sicuramente un rivitalizzare calciatori che erano sulla via del declino, e gli acquisti super scontati, per esempio di Thiago Motta, che era parametro zero, non ricordo male, sono testimonianza di una gestione oculata. Cioè, accanto a questo però comunque stato uno sforzo economico per riportare il Genoa in Serie A, che si è visto dai bilanci, e le cessioni di Ferrari, Thiago Motta, di Milito testimoniano in qualche modo la necessità di rientrare da queste spese. È una bella sfida quella del Genoa e di Preziosi, che ha avuto qualche difficoltà in passato con altre società, però ecco, è un esempio positivo da guardare, scommettere sui giovani, recuperare magari calciatori che in altre squadre non giocano e assemblare squadre importanti. In quel senso l'allenatore è fondamentale. Fondamentale, infatti il vero colpo di mercato di Preziosi è stato innanzitutto quello di tenere Gasperini, ma poi il Genoa è un progetto, quindi se hai una squadra che va da sola, no? Che è una squadra che va da sola, gli innesti salgono su una macchina già rodata e che quindi insomma il segreto non è così difficile da comprendere. Non perché c'è un ascoltatore che dice ma parlare ogni tanto del, che scrive, parlare ogni tanto dell'Udinese vi farebbe venire l'orticaria, non per questo, ma volevo già parlarne. Stavo appunto citando l'Udinese, L'Udinese l'altro giorno sentivo un servizio in TV su tutte le plusvalenze che ha fatto nel corso degli anni Pozzo, che è un osso duro, come sa bene anche la stessa Juventus con D'Agostino, è uno che insomma fissa il prezzo e di lì non scende, non molla e riesce a fare degli affari colossali, ne ha fatti tanti. Si è chiuso l'ultimo bilancio con 8 milioni di euro di appunto avanzo, che sono in questi tempi assolutamente graditi. C'è un equilibrio finanziario di gestione invidiabile nell'Udinese e soprattutto c'è una politica molto chiara, si reclutano giovani in tutto il mondo e lì sono bravissimi, numero uno in Italia assolutamente. Recuperano risorse vendendoli, anche se le plusvalenze, come Galliani si è lamentato a proposito della vendita di Kakà, sono tassate al 4% a differenza di tutti gli altri paesi, quindi il bilancio, voglio dire, dell'Udinese potrebbe essere ancora più florido se non fossero più tassate le plusvalenze sull'IRAP, come le società di calcio stanno chiedendo ed hanno chiesto la scorsa settimana in un incontro con il governo. Per cui Udinese, Genova e qualche altra società, a mio avviso, sono il futuro del calcio italiano, o come almeno sistema di gestione, esattamente, o perlomeno di una visione sostenibile del calcio. Alfio Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, io volevo chiedere semplicemente sul mercato di Felipe Melo, novità? Stiamo aspettando. Ah, infatti, ancora niente di... Al momento no, siamo fermi a Macchioni, insomma. Esatto, sì, c'è questo... questi due 200.000 l'anno che ballano, che Marchionne chiede in più, ma sì, insomma, questione di un giorno, meno si farà, meno è già della Juventus, aspettiamo. Però io che sono juventino. Ma sì, ma lo spera anche Corvino, perché stiamo parlando di soldi, ripeto, quei 25 milioni. Ma sono tanti, certo. Se facciamo due conti, due parametri, l'anno scorso 18 costava Xabi Alonso, è stato lasciato lì. Ne sono stati spesi 10 per Poulsen, insomma stiamo parlando di 25 milioni di euro per Felipe Melo, sono un sacco di soldi secondo me. Andiamo anche a Vicenza da Giuseppe, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Sono sempre da Vicenza, sì. Infatti lo scottatore di prima mi ha anticipato, cioè questi 25 milioni per Melito, per Melo. Scusate. Cioè più mezzo cartellino anche del giocatore, cioè arriviamo a circa, superiamo già i 30 milioni di euro. No, compresi, attenzione, perché sarebbero, se non ricordo male, 20 e mezzo più metà del cartellino, la metà mancante del cartellino di Marchionni nel risico del mercato, quindi sarebbero 25 complessivi. Ah beh, allora... allora un'altra storia, no, volendo, sono sempre tanti. Si potrebbe sistemare anche un po' la difesa, perché secondo me abbiamo una difesa, sono juventino da 30 anni, abbiamo una difesa che secondo me balla dai destra ai piedi, perché a sinistra e a destra non abbiamo nessuno, perché con sì, le fasce sarebbero da rinfrescare. Un centrale che ha 35 anni, sinceramente parlando. Sì, però ce n'è anche uno che ne ha molti meno, che è Chiellini, ce n'è anche un altro che reduce comunque, al di là dell'ironia che si può fare, da una ottima stagione come le Grottaglie, ce n'è un altro che è in rampa di lancio come Ariaudo, e qui torno a ripetere quello che ho detto nei giorni scorsi. Se l'obiettivo, uno degli obiettivi per cui è stato fatto l'affare Cannavaro, è stato quello di farlo crescere sotto l'ala di far crescere Arialdo sotto l'ala di Cannavaro, beh, non mi sembra una cattivissima idea. Sentiamo anche Roberto da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Senta, complimenti per la trasmissione. Grazie. Io intervenivo per questo, io sono tifoso milanista. Ho sentito dire da diverse parti che con la vendita di Kakà il Milan ha sistemato il bilancio. Sì. Quindi non sarebbe esattamente proprio così. Dovremmo vendere ancora qualcuno per andare in pareggio di bilancio, da quanto ho capito. La ringrazio, ascolto per radio. Io ringrazio lei e faccio rispondere a Marco Berinazzo. Il pareggio di bilancio riguarda la gestione ordinaria. Ordinaria. Il bilancio del Milan 2008, al 31 dicembre 2008, si è chiuso con 76 milioni di rosso di passivo legato alla gestione dell'anno, ripeto, quindi i 65-66 milioni recuperati per Kakà, tolte le tasse, serviranno per coprire in parte il bilancio, diciamo questa perdita di bilancio. Ci sono poi iscritti nello stato patrimoniale al passivo circa 390 milioni di debiti che legati poi alla valutazione finanziaria sono un po' meno i debiti, comunque siamo oltre i 250 milioni di debiti secchi, per cui evidentemente qualche altro giocatore andrà venduto e un giocatore per esempio come Pirlo, di cui ormai si parla insomma, vicino al Chelsea, più che vicino al Chelsea, può essere un altro esempio di come non si sia ancora raggiunta il pareggio di bilancio. Galliani lo vuole raggiungere nel 2010, per cui forse assisteremo appunto ad altre vendite. Senti Marco, sei stato al famoso workshop rosso-nero in Sardegna. Sì, un Adriano Galliani molto rilassato parlava in camicia rosa. Sì, era un appuntamento che mi dicono in passato molto molto importante, che serviva per annunciare acquisti. Per annunciare acquisti. Per acquisti importanti. Meno. Quest'anno è stato annunciato l'acquisto di Gennaro alle buste, di Zigoli, insomma non c'era... Zigoni, scusami. Sì. Quindi c'era un clima un po' diverso, effettivamente si respirava. Non è un male, io ritengo che non sia un male cambiare politica. Se questo significa recuperare il vivaio, se significa stare più attento ai bilanci, iniziare a considerare l'ipotesi di uno stadio di proprietà e quindi una nuova politica di merchandising, dei diritti televisivi, ispirata ai modelli migliori che ci sono in Europa. Se invece si vende per far cassa e non lo si spiega ai tifosi, poi si finisce che ci sono contestazioni più o meno legittime. Naturalmente. Più o meno legittime nel senso che io non sono mai dalla parte dei contestatori, potrebbero fare altro, no? Piuttosto che accendere i fumogeni e stare a strillare. Sono d'accordissimo invece sul fatto che ci vorrebbe un po' più di trasparenza da parte del club su quali sono i legittimi, e qui hai ragione da vendere e sottolineo legittimi, obiettivi perseguiti. Ci fermiamo, traffico, c'è già Giovanni da Napoli, poi vorrei anche andare con Marco Vignazzo sulla sua lettura di un altro dei misteri buffi di quest'estate calcistica, che è quella storia la tessera del tifoso, su cui so che sei informato. Marco Berinazzo stava poco fa facendo una riflessione su questi 25 milioni relativi a Felipe Melo. Sì, che rappresentano, sempre guardando i bilanci, più del valore dell'intero parco giocatori di almeno 7 compagini della prossima Serie A. E peraltro i diritti pluriennali dei calciatori, quel valore che in bilancio ci dice più o meno quanto la società stima il proprio parco giocatori, della Fiorentina è di 100 milioni di euro, quindi aver guadagnato 25 con la cessione soltanto di Felipe Melo significa che è stato fatto un bel affare. Sì, anche perché Felipe Melo è stato pagato 8 l'anno scorso. Beh, su questa differenza, quei 17 milioni si pagherà la vituperata IRAP, sì. Ma sarà contento Tremonti. Eh sì, comunque 8, giusto per fare dei raffronti, 8 per Felipe Melo alla Fiorentina l'anno scorso in Spagna, sempre in Spagna la Juventus 10 per Poulsen, e quest'anno paga 25 Felipe Melo, giusto per così, per giocare. Giovanni, Napoli, buongiorno. Buongiorno, salve. Dica, salve, dica. Volevo avere, cioè praticamente una vostra risposta riguardo alla campagna acquisti del Napoli, sì. Considerando anche che il Napoli rispetto a molte altre squadre di Serie A della sua fascia ha acquistato, poi vedi altre, Fiorentina, la stessa Roma, il Genoa anche, che ha fatto una bella campagna acquisti però ha venduto giocatori come Motta, come Milito, quindi secondo voi il Napoli considerando che il presidente ha detto che deve anche comprare un attaccante, un terzino sinistro, alla luce degli acquisti fatti fino ad ora, come lo vedete? Bene. A ridosso delle grandi oppure praticamente della Fiorentina, della Roma? Lo vedo più forte dell'anno scorso. Credo che abbia fatto un'eccellente campagna acquisti. Roma, Fiorentina, vediamo. Che secondo me è ancora un gradino sotto rispetto alla Roma, che insomma considero comunque dal punto di vista del valore assoluto, delle potenzialità, alla pari del quantomeno del Milan, comunque lì tra le grandissime, perché insomma ha sbagliato la stagione l'anno scorso, però la Roma rimane dal punto di vista tecnico secondo me uno squadrone. Quanto al Napoli, Marco, ha speso tantissimo da Laurentiis. Tantissimo, il primo quinquennio dell'era De Laurentiis, quello che è servito per riportare la squadra dalla C1 alla A, è stato gestito anche dal punto di vista del bilancio molto bene. L'ultimo esercizio si è chiuso con 12 milioni di attivo, però chiaramente la campagna acquisti dell'anno scorso sbagliata a mio avviso per molti punti di vista, ma quella molto intelligente, molto oculata che si è svolta quest'anno anche dal punto di vista proprio dei tempi. Il Napoli ha anticipato molte operazioni, porterà i debiti abbastanza in alto. Anche lì, qui c'è una scommessa, diciamo, alla Florentino Perez, fatte le dovute proporzioni, sull'investimento in diritti televisivi, sui 5 milioni di tifosi che il Napoli ha nel mondo. De Laurentiis sta facendo una grande operazione, vuole portare il Napoli in Europa stabilmente nel prossimo quinquennio, ed è una sfida anche in questo caso a mio avviso molto molto positiva e da seguire con attenzione. Giuseppe, Roma, buongiorno. Io la ringrazio per le parole belle spese nei confronti della mia squadra. Sì. Però volevo chiederle una cosa: 30 milioni per De Rossi, 30 offerti dalla Real Madrid, 35 sì. milioni di euro offerti al Manchester United per Ibrahimovic. Sì. Ma c'è qualcosa che non va? No, o meglio, la Roma, sì. se avesse avuto ancora Sisigno, Juan e Aquilani in piedi, forse non avrebbe dovuto vendere De Rossi. Ah. E De Rossi vale Cruz, perché poi alla fine quello è il cambio. Ah. Guardi, su questi 35 milioni per Ibrahimovic, io farei la tara su queste notizie che arrivano dall'Inghilterra, perché mi sembra una barzelletta, no? Manchester United che offre 35 milioni per Ibrahimovic quando Moratti ne chiede un'ottantina al mercato spagnolo, direi. Si potrebbe leggere innanzitutto con le difficoltà di bilancio che avrà il Manchester, che verranno fuori l'anno Manchester. Prossimo. Basta guardare la campagna acquisti del Manchester, no? O meglio, cessioni. Cristiano Ronaldo venduto alla cifra record e non è arrivato praticamente nessuno. Anche perché dal prossimo anno, dal punto di vista delle aliquote fiscali, sarebbe costato almeno un 10% in più l'ingaggio di Cristiano Ronaldo, che l'aliquota sopra 150.000 sterline passa al 50% in Gran Bretagna nel 2010, e questo spiega sì. poi tanti movimenti dall'Inghilterra verso la Spagna. Sì, è un'offerta che secondo me lascia il tempo che trova, non mi sembra molto realistica anche per il valore di Ibrahimovic, che non arriverà magari ai livelli di Cristiano Ronaldo, ma insomma... Sì, insomma, siamo in quella fascia di top in assoluto. Quanto ai 30 per De Rossi, 30 per, non mi piace star qui a dire vale, non li vale, sono un mucchio di soldi. Fate voi 30, 35, 40, fate voi, insomma, però mi sembrano tanti soldi. Sono soldi soprattutto di cui la Roma ha bisogno. Sentiamo anche Cristian, la provincia di Cremona. Poi, Marco, voglio questa storia della tessera del tifoso che mi incuriosisce. Cristian, buongiorno. Buongiorno, sono Cristian Davaiano, un Pamoi. Io e i miei colleghi le stiamo ascoltando per radio e sì. la riteniamo un giornalista di tutto rispetto, quindi volevamo una sua opinione sulla campagna acquisti del Milan. Secondo noi è orrenda. Galliani sta facendo il burattino del suo presidente, che io non nomino neanche. Perché dopo le elezioni se ne è lavato le mani, ha venduto Kakà, si è fatto i propri interessi e sta facendo il presidente di se stesso come sempre. Grazie, l'ascolto per radio. Sì, telefonata molto polemica nei confronti del numero uno rosso. Beh, insomma, la campagna acquisti del Milan di fatto non esiste, esiste una campagna cessioni, che è quella di Kakà. È arrivato questo difensore americano a parametro zero, che potrebbe anche essere un colpo interessante, considerato che a parametro zero ci sono poi, Marco, questi 14 milioni nella valigetta che ballano per l'Europa, che sono i soldi di Gourcuff. Sostanzialmente sì, la campagna acquisti del Milan, ripeto, va giudicata alla luce di quella che è la politica di bilancio che è stata dichiarata, forse male dal punto di vista della comunicazione, ma ormai mi sembra palese, e c'è un po' di malcontento tra i tifosi, me ne rendo conto, però c'è una scelta della proprietà. Non so se questa scelta tra qualche anno porterà a un disimpegno ancora più netto e a una cessione del Milan come molti tifosi chiedono ormai. Berlusconi dice di no, però dice anche che il Milan è forte più dell'Inter. Sì, io non commento queste dichiarazioni, ma direi che... Se vuole commento io, le commentano gli ascoltatori. Insomma, mi sembra una buttata elettorale, naturalmente stiamo parlando di calcio, certo, però certo. È chiaro che il Milan non è forte quanto l'Inter, è chiaro che il Milan senza Kakà è la stessa squadra dell'anno scorso, meno il più forte giocatore del mondo. Io mi appello sempre alla magia del calcio, non sempre chi ha i giocatori sulla carta più forti poi vince, e magari chissà, ci troveremo tra qualche mese qui a commentare di un Milan stellare, di un Milan che vince, di una gestione Leonardo che assomiglia un po' a quella di Guardiola a Barcellona, chissà, vedremo. Leonardo è stata una, secondo me, ripeto, una scelta intelligente invece, una scelta intelligente perché comunque è un uomo di comunicazione, di carisma, di grande intelligenza. Io sono dell'idea che squadre come il Milan, l'Inter, il Real Madrid, il Manchester United, le alleni fino a un certo punto, le gestisci il parco giocatori che hai, le personalità che hai, gli ingaggi che hai, eccetera eccetera, e da questo punto di vista credo che Leonardo sia stata una scelta di grande intelligenza. Allora parliamo di questa tessera del tifoso, ma cosa succede? Succede che da circa un anno il ministro degli interni, quindi una persona di assoluta autorevolezza, Roberto Maroni, insiste sulla necessità che tutte le squadre di calcio, non solo in Serie A e in Serie B, ma anche quelle in Lega Pro, da questo campionato adottino questa benedetta tessera del tifoso, cioè questo strumento che dovrebbe sostituire biglietto e abbonamento e garantire preventivamente che allo stadio non ci vadano teste calde, cioè soggetti che hanno avuto un DASPO oppure che siano stati condannati per episodi di violenza legati a manifestazioni sportive. Questo è più o meno il quadro giuridico. Sta di fatto che questa tessera l'ha creata per primo il Milan l'anno scorso, l'Inter ha uno strumento simile che dovrebbe essere altrettanto efficace, la Juve ha annunciato che sarà pronta per la prossima stagione, dopodiché nell'incontro che hanno fatto qualche giorno fa al Viminale moltissimi club si sono dichiarati non pronti, altri addirittura contrari ad adottarlo. La Serie A B non è stata nemmeno convocata, sarà poi convocata. Sicché si assiste al solito balletto di responsabilità italiane, per cui c'è uno strumento che dovrebbe garantire, per esempio, di evitare quelle fastidiose restrizioni che ci sono sull'acquisto dei biglietti, oppure quei divieti di assistere alle partite anche della propria squadra, anche se c'è il divieto di trasferta, quel divieto a cui ormai ci siamo abituati, determinati dall'osservatorio e dal CASMS. Dovrebbe appunto servire a tutto questo. Fatto sta che nessuno ce l'ha, tranne l'Inter e il Milan, almeno per ora, e che non si sa se alla fine di quest'anno almeno sarà uno strumento diffuso. Ma doveva essere obbligatorio, no? Dall'inizio di questa stagione doveva essere obbligatorio, addirittura dal primo gennaio del 2009. Addirittura a un certo punto si parlò del primo gennaio 2009 con un comunicato del Viminale, e poi si è parlato dell'inizio di questa stagione. Forse se ne parlerà l'anno prossimo, insomma, forse, o ci si crede o meno. Tanto più che mancano, per quanto riguarda biglietti e abbonamenti, quelli che attualmente vengono distribuiti, dei decreti attuativi, per cui è vero che ci sono biglietti nominativi, tornelli, che questo dovrebbe garantire sicurezza, ma in maniera preventiva non è possibile sapere se chi va ad acquistare un biglietto ha un DASPO oppure ha una condanna, e quindi se è legittimato a entrare allo stadio o meno. La tessera del tifoso dovrebbe consentire di ovviare a questo problema, garantendo un filtro preventivo, e quindi il fatto che la società si rivolga alla questura prima di emetterla attraverso la banca per sapere se la dà a una persona per bene o meno. Fatto sta, ti ripeto, che è molto molto lontano dall'essere un qualcosa di reale. Ma caro Marco, come al solito all'estero gli stati di proprietà qui un sacco di carte e di chiacchiere e poco altro. Marco, grazie a voi, ci sentiamo, prendiamo degli appuntamenti fissi nel corso di quest'estate, perché ritengo che io, almeno personalmente, trovo queste chiacchierate molto molto interessanti. Grazie a Flavio Suardi per il lavoro in redazione, a Fabio Cantadore in regia. Ci troviamo domani pomeriggio dalle 14 alle 15, come al solito, su Radio 24. Buona giornata a tutti.